Thérèse e Francesca Matteoni con tutti gli altri, se non mi ricordo male, giusto? Perfetto, avevo il terrore di dire gli altri e basta, invece tutti gli altri, che collana diretta da Vanni Santoni. Io mi permetto, faccio una brevissima introduzione accennando a quello che a me ha colpito di questo romanzo, per poi poterne dialogare con l'autore, sperando che poi ci possa essere anche spazio per domande dal pubblico, anche perché il libro è da un po' di mesi che cammina con le sue gambe, quindi magari ci sono certamente alcuni tra i presenti che non l'hanno letto, ma ci sono anche certamente quelli che già invece hanno avuto modo di poter leggere il romanzo. Dico brevemente che il romanzo... È ripartita, ok. C'è una poesia di Guido Gozzano a cui io ho pensato quando ho letto questo libro, perché c'è una poesia di Gozzano nella quale il protagonista, parlando direttamente col tempo, a un certo punto si tasta la testa parlando della forma del cranio, proprio la percorre come se fosse una sorta di confine esplicito tra il mondo della coscienza e tutto quello che preme fuori. Io è un'immagine che mi ha molto colpito e che in qualche misura mi ha accompagnato, mi ha fornito una chiave di lettura per questo romanzo, che a sua volta è tutto giocato su questa soglia e su quanta misura di sincerità e al tempo stesso invece quanta misura di inganno, di autoinganno ci possa essere in quello che recepiamo da dentro e da fuori. Il romanzo è ambientato a Borgo Carige, quindi vicino a Capalbio, nella provincia del Toscana, al confine appunto fra la Toscana e il Lazio. Il protagonista, Davide Aloisi, che fin dal cognome, credo, ieri abbiamo presentato i fratelli Michelangelo di Vanni Santoni, che dialogava fin dal titolo con i fratelli Karamazov di Dostoevskij, poi ora forse Andrea invece non confermerà il fatto che Aloisi possa in qualche maniera strizzare l'occhio a Alyosha, ma insomma è un ragazzo che soffre di questi mal di testa devastanti che lo hanno anche reso dipendente da tutta una serie di farmaci, e ci introduce con questo suo monologo profondamente cerimonioso, estremamente strutturato, nella sua raffinatissimo trascorrere dei giorni in un lungo, vasto mare immobile di sensi di colpa, di inettitudine, di incapacità, e anche a tutte le persone che ruotano intorno al suo essere bloccato in questo luogo e in questa condizione, che sono una badante rumena che parla l'italiano infinitamente meglio di tutte le persone che sono intorno a lei, la madre pazza del protagonista allettata che parla e che legge il mondo attraverso le lenti contemporaneamente dei demoni di Dostoevskij e la saga fantascientifica di Dune, un nipote, un prete che si trova a giocare a Risico fino a tardanotte, che manda delle missive a tutti gli intellettuali italiani a partire da Calasso senza ricevere risposta. In tutto questo il protagonista e la sua famiglia, la vicenda parte, inizia, grazie, inizia perché una mattina viene rinvenuta sulla soglia di casa il cadavere, insomma, scorticato di una nutria, e tutto minaccia, accusa silenziosa, qual è il motivo per il quale quell'oggetto, insomma, si trova lì. Tutto questo scatena una ricerca affannosa del motivo e del colpevole, e tutto questo nella mente del protagonista e nella vita intorno a lui accende è la miccia di una sorta di spaventoso sabba di sogni che divorano altri sogni. E progressivamente, andando avanti nel romanzo, la realtà esterna e l'immaginazione all'interno dello sguardo del protagonista si confondono in maniera sempre più drammatica e più pericolosa. Detto questo, che appunto è come percorrere a volo in maniera molto superficiale la trama, io volevo fare alcune considerazioni dal lettore. Questo è un libro che ha tanti e importanti pregi, poi ci sono delle questioni che desidero chiedere direttamente all'autore, però volevo fare semplicemente un elenco di questioni che per me sono molto importanti. La prima è che questo è un testo con una grande, straordinaria maturità stilistica. Io lo faccio questo appello alla Polveriera, perché è un luogo che è sensibile a queste cose. Io spero, l'ho già detto anche pubblicamente, che ci sia una compagnia giovane e audace di attori che abbiano l'intelligenza di metterlo in scena, perché questo è un testo teatrale, ha un'unità di tempo e di luogo aristotelica perfetta, è un monologo e avrebbe secondo me sul palco una grandissima forza di impatto, e questo è già una riprova della sua forza e della sua vitalità quando un testo può essere tradotto in un altro linguaggio artistico. L'altro punto è che questo è un libro che fa vedere, senza bisogno di dimostrarlo, ma semplicemente mostrandolo, come la colpa, uno dei temi fondamentali dell'esperienza umana e quindi dell'esperienza letteraria, non è un evento, non è neanche uno stato, è una regione. Si può stare nella colpa come si sta in un paesaggio, ogni giorno scoprendo cose nuove a ogni angolo della strada, di un'unica, grande, vasta geografia che si chiama senso di colpa. È un libro che è capace di raccontare tante questioni importanti, in un certo modo non scontato di raccontare il mondo della provincia italiana, ma su questo torneremo, perché poi adesso il tema della periferia in letteratura è diventato addirittura uno stereotipo, no? Ormai è diventato una cosa quasi scontata, o con dei linguaggi scontati. È un libro che sa raccontare in maniera profonda e significativa la perdita del sacro nella società contemporanea, è un grande affresco della disaffezione a sé, di che cosa vuol dire non guardarsi con simpatia, con un'ultima radicale stima, e quali ne sono le origini. È come se tutti i personaggi fossero dall'altra parte del cancello, del giardino, dell'Eden, dopo che la porta è stata sbarrata. Anche se sono magari passati anni, sono persone mature, ma sono tutti lì che stanno battendo i pugni. Ha una grande capacità. Io, in un altro libro molto bello della collana Tunué, che era Dalle rovine di Funetta, avevo detto che era un libro al tempo stesso spaventoso e di una grande bellezza. Questo è un libro che è capace nella stessa pagina di farti ridere a voce alta e al tempo stesso di scostare gli occhi dalla pagina per l'intensità dolorosa e orripilante di determinate dettagli, determinate questioni. E queste due cose sanno stare insieme, perché sanno comunicare insieme qualcosa che è inesorabilmente vero. Questa è veramente una grande conquista espressiva. Io l'ho detto, cioè, tanti libri che millantano di saper raccontare la disaffezione, la violenza, il compiacimento, l'autocompiacimento masochistico con il quale tante volte noi roviniamo o lasciamo che le nostre vite si rovinino, al paragone di determinate pagine e dell'orizzonte narrativo di questo libro, che ha in questo una sorta addirittura quasi di grande candore, veramente sembrano delle prove liceali. Detto tutto questo, la prima domanda che volevo farti, Andrea, è: noi siamo a un festival di letteratura sociale, è molto bello che sia stato deciso dagli organizzatori di avere un libro così. Già ieri dialogavamo, no, durante l'incontro sulla critica, sul fatto che la declinazione, l'intensità, anche la ricaduta sociale di un'opera letteraria non ha niente a che vedere con l'esplicitezza di determinati temi civili o sociali, no? Ma è la profondità di verità nella quale il testo di per sé ti immette. Però c'è un tema che secondo me esplicitamente oggi è profondo, è importante e non è spesso guardato in maniera intelligente, invece la narrativa ci può aiutare a guardarlo, ed è quello che dicevo prima, anche come ricaduta sociale comune, la perdita del sacro nella società contemporanea. C'era un'espressione di Mircea Eliade che dice che gli uomini, anche quando non lo sanno, si muovono comunque gravati da delle scorie mitologiche. Mi sembra una definizione che potrebbe calzare molto bene per tutti i tuoi personaggi e per il protagonista in particolare, ma anche per tanti temi del libro. Volevo chiederti se sei d'accordo e in che misura. Allora, grazie Edoardo, grazie a tutti voi. Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché proprio riprendendo Eliade, nella dialettica delle ierofanie, accade che sostanzialmente quello che era un documento, un rito, un mito vissuto con forza, carico di significato, man mano questo significato va a perderlo, va a perdere e diventa appunto una scoria mitologica, diventa sostanzialmente una sorta di superstizione, non si capisce nemmeno più per quale motivo viene in qualche modo perpetuato. Un esempio molto interessante è quello dei contadini della Moravia, dove veniva celebrata una festa del maggio. Questa festa del maggio era una festa, diciamo così, di stampo pagano o comunque non imbrigliata nei dettami cattolici, e succedeva che una coppia di ragazzi, di adolescenti, venivano fatti rotolare nel grano durante un amplesso. Questo qui per far ripartire tutte le energie della terra, per far ripartire il rinnovamento e per celebrare il rinnovamento. Ecco, questo fino a metà Ottocento. Da allora in poi hanno cambiato e hanno iniziato a far rotolare il parroco, quindi far rotolare il parroco in questo campo, e mi sembra un ottimo esempio di scoria mitologica, perché si è perso completamente il senso di tutto e invece abbiamo questo esempio. Ora, il tema del sacro è un tema, secondo me, estremamente importante. Non importante dal punto di vista della credenza, della fede, dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista invece di ciò che è altamente significativo. Altamente significativo può essere anche un qualcosa che riguarda la vita di ogni giorno, per quanto questa poi venga in qualche modo circoscritta e contamini anche delle zone attigue. La sacralità può essere ritrovata nell'amicizia, la sacralità può essere trovata a maggior ragione in quella importante meditazione laica che è la lettura. Il sacro, cioè, non è un qualcosa che viene meno, vengono meno alcune sue forme. Noi purtroppo stiamo perdendo le nuove forme che il sacro può assumere, quindi la sua morfologia. Il protagonista e i miei personaggi del libro sono imbrigliati in una situazione nella quale sostanzialmente nulla ha più troppo senso. Anzitutto si tratta di personaggi che non intorno ai 30 anni, che non lavorano, sono in qualche modo mantenuti dai genitori, sono quindi anche benestanti, non fortissimamente, però lo sono. E la loro vita è una vita priva di ogni elemento altamente significativo. E perciò che cosa fanno? Vanno a reagire attraverso forme di autotrascendenza. L'autotrascendenza è un concetto molto caro ad Aldous Huxley, che non va intesa solo in senso verticale, quindi per esempio per il tramite della mistica. L'autotrascendenza è accade ogni volta che un soggetto fuoriesce da se stesso, è come se fosse un altro, è come se uscisse fuori da il proprio stato quotidiano. Lo fanno in modo molto imbranato anche questo di riuscire a autotrascendersi. In particolar modo abbiamo un personaggio, Emanuele, che è anche culturalmente molto smaliziato, che inizia a credere negli alieni, inizia a credere negli antichi astronauti e quindi nella colonizzazione degli Anunnaki. Inizia a fare studi di sumero e anche di ebraico antico, e perviene a una teoria che poi tra l'altro è anche quella di Mauro Biglino, un soggetto che si occupa un, un esperto biblico che si occupa di questa visione eterodossa, che io peraltro non condivido, però fa parte del personaggio, e decide di iniziare a sperimentare alla luce proprio di questo cambiamento molto forte, tant'è che chiede al protagonista di sodomizzarlo, che al protagonista di sodomizzarlo per provare un qualcosa di ulteriore, di nuovo, e perché sconvolto da questo. Un altro personaggio, Edoardo, è quello del ragazzo cubano che si occupa, Esteban, sì, si occupa della santeria. Anche qui abbiamo nuovamente, sia con gli alieni, sia con la santeria, e quindi perciò con tutto il mondo degli spiriti, abbiamo delle forme di sacro in qualche modo depotenziate, che talvolta addirittura diventano superstizioni. Per quanto riguarda infine il protagonista, lui la sua autotrascendenza la ricerca soprattutto nell'abuso di alcol, nell'interessarsi in un modo ossessivo a fatti culturali. Lui è molto isolato vivendo in campagna, e poi lui prova anche con la mistica. In ogni caso, il tema del sacro trovo che sia centrale nel romanzo. Senti, lo accennavo prima, lo hai detto anche te adesso, il romanzo è ambientato in provincia, no? quella provincia dostoevskiana delle idee fisse, no? Come se le idee siano, come se uno in provincia, quello che in città comunque si annacqua in una convivenza diversa con tante cose, come se lì invece si potesse premere l'acceleratore, le cose diventano estreme, no? Spiccassero. Ti volevo chiedere, lo accennavo prima, c'è oggi tanti che brandiscono questa questione della periferia, dello sguardo periferico sulla realtà, eccetera, che come tutte le cose poi diventano appunto degli stereotipi, dei letti di Procuste già previ con i quali si decide di raccontare la realtà. Che cosa tu volevi raccontare della provincia e che cosa non volevi raccontare o volevi sfatare o assolutamente aggirare come narrazione semplicistica? Allora, di base non volevo sfatare nessuno stereotipo della provincia, non mi sono posto proprio il problema. Quello che mi interessava della provincia era il fatto di potersi trovare di fronte un'umanità, sembrerà strano, ma tra virgolette, diciamo così, assoluta, non immersa nella storia. Questo perché? Perché nella provincia vale un po' quel famoso adagio di Gramsci, in base al quale il vecchio è morto, e nella provincia il vecchio è morto realmente, perché non c'è più la cultura agraria, non c'è più quel modo anche di fare comunità all'interno del paesino. Allo stesso tempo il nuovo non può nascere, il nuovo si muove altrove, non nella provincia, si muove in città, si muove nelle città metropolitane, si muove dove ci sono molti, molti più stimoli. La provincia invece rimane lì statica, stagnante, e appunto, come diceva Gramsci, in questi casi emergono i fenomeni i più aberranti. Quello che a me interessava era andare a vedere questi fenomeni aberranti spalmati su vari personaggi. D'altra parte, poi la provincia come luogo di stagnazione porta ad acuirsi quello che te chiamavi la fissazione delle idee. Infatti, come avevamo visto prima, alcuni personaggi hanno delle idee molto forti, è molto corretta il richiamo che tu hai fatto a Dostoevskij, in particolare ai demoni. Infatti anche in quel caso abbiamo personaggi che sono dominati da un'idea. Da un'idea, sono anche in quel caso dei personaggi che vivono una certa aridità culturale, vivono di un'idea e anche muoiono per questa idea. A me interessa vedere come un'idea, per quanto anche aberrante, si articolasse, si muovesse all'interno della provincia. Un altro motivo per cui ho scelto questa ambientazione è che è un'ambientazione che mi è molto familiare, perché io sono cresciuto in campagna e avevo piacere, rispetto ad altri lavori precedenti, di occuparmi della prossimità, senza riprendere caratteri realistici o cose, caratteri, diciamo, di persone reali oppure anche autobiografiche, però andare a raccontare questo pezzettino di mondo che diventa però, proprio in virtù della sua desertificazione, un qualcosa in cui possono interagire dialetticamente le idee. E per me questo era molto importante. Ti chiedo due cose. Una, che chiedo sempre agli scrittori perché mi interessa, è se ci puoi raccontare qual è l'immagine, il tema o il dettaglio, mi viene da dire, visivo che per primo hai visto, intorno a cui si è coagulata la storia. Ieri Vanni ne ha citati tre, quindi se ne citi addirittura quattro, superi i fratelli Michelangelo. E l'altra cosa è, invece, se ci puoi raccontare, i libri sono delle strade che uno intraprende, spesso con delle svolte, uno torna indietro, se ci sono, e questo ci aiuta secondo me anche a metterlo a fuoco di più, se ci sono state dei tentativi di approccio a questa storia che hai inizialmente tentato, stilistici, immaginativi, che non funzionavano e ti hanno per contrasto fatto capire come dovevi raccontarla. Allora, il dettaglio dal quale sono partito, che si trova tra l'altro anche nell'incipit proprio del romanzo, è quello di questa nutria congelata e scorticata che il protagonista si trova sul pianerottolo di casa. Questo perché? Perché si tratta di un ritrovamento assolutamente inconsueto, assurdo, e mi serviva per iniziare a far emergere e poi raccontare sempre più minuziosamente il pensiero ossessivo del personaggio. Ora, questo pensiero ossessivo è favorito da varie cose. La prima cosa che lo favorisce è che la sera prima ha preso una sbornia colossale, quindi si risveglia dopo aver dormito poco, sta male, ha i postumi, e poi, come tutti sapete, quando uno ha preso una sbornia colossale e magari ha anche delle amnesie della serata, discorsi fatti, okay, tende ad avere un senso di colpa o comunque di agitazione. Quindi questo primo fattore. Il secondo fattore era quello lì del problema della cefalea cronica del personaggio. Cefalea che già c'è di per sé, dopo una sbornia si decuplica, e poi quello proprio del pensiero ossessivo. Il pensiero ossessivo è quel pensiero che tende ad appiccicarsi alle cose, e una volta che ci si è appiccicato non le molla, come un vortice che ti ci tira sempre, sempre in qualche modo più dentro. L'idea base del romanzo è stata quindi quella di fare una sorta di esperimento. Non sapevo ancora chi avesse messo la nutria, quindi questo qui è, diciamo, anche un qualcosa che lo differenzia molto da un ipotetico giallo, perché io non sapevo chi fosse all'inizio ad aver messo questa nutria, e questa nutria crea tutta questa serie di problemi al protagonista. Quindi questa è l'immagine. Mi ricordi la seconda domanda, Edoardo? Ok, allora, ho tentato varie strade che non funzionavano. Ora, senza spoilerare, una prima strada che avevo tentato era di ambientare l'intero romanzo sul Monte Amiata ad Arcidosso, e in particolar modo in una comunità giurisdavidica, la comunità fondata da David Lazzaretti. Avevo creato tutta una sorta di ucronia in base alla quale era successo che questa comunità si era espansa, aveva formato dei conventi, dei monasteri, e i genitori del personaggio venivano da lì. In particolar modo la madre era una suora che era sfuggita da questo convento giurisdavidico. Poi, per ovvie ragioni, ho deciso di lasciar perdere questa via. La seconda via che ho tentato è stata quella della creazione di un paese inventato, quindi non un luogo fisico, perché pensavo di inscenare varie dinamiche politiche e anche in qualche modo massoniche. Solo che purtroppo alla fine non me ne fregava abbastanza, mi interessava dei personaggi, e quindi anche quella via l'ho lasciata andare. Devo dire che per quanto riguarda poi la parte finale, senza dire che cosa accade, mi ha molto aiutato anche Francesco Disa, che è qui presente, perché gli mandai varie versioni, no, è la verità, varie versioni. Ricordo, Francesco, che mi dicesti di non mettere in nessun caso un doppio suicidio. Non vedi, ti ricordi. E il libro è stato molto bello da scriverlo, ma anche molto impegnativo, ci ho messo 5 anni addirittura. A parte che queste informazioni, credo che dalla polveriera possa già partire una petizione perché te invece il romanzo sulla comunità lo faccia, e abbiamo appena scoperto il nuovo finale del nuovo romanzo di Francesco Disa, e sicuramente comprenderà un doppio suicidio, giusto? E anche il titolo, che a questo, insomma, lui voleva evitare che ci fossero dei pericolosi doppioni. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa, che è questa. Ormai il libro è un po' di mesi che cammina con le sue gambe, quindi è stato molto recensito. Ti volevo chiedere, in qualche misura le recensioni e i lettori in generale riconsegnano in un certo modo il testo all'autore, no? Sottolineandone degli aspetti anche diversi da quelli che possono essere quelli di cui tu sei principalmente consapevole mentre lo scrivi. Ti volevo chiedere se ci potevi raccontare alcune delle letture del tuo stesso romanzo, dei tuoi personaggi, che ti hanno o più colpito, più sconcertato, irritato, divertito, che ti hanno fatto ritornare al tuo stesso testo con occhi diversi. Te prima, per primo, hai citato con dei distinguo il fatto che più di una persona, ad esempio, ha parlato del fatto che lo ha definito un giallo. Però certamente, ad esempio, è un libro che dialoga, io parlavo prima della sua teatralità, anche con tanti elementi del teatro greco, nei quali c'è un'inchiesta che ha sempre a che fare con una colpa, che non è mai completamente esterna anche ai protagonisti dell'inchiesta stessa. Però ce ne sono state certamente tante altre, se ci puoi raccontare qualcosa di questo e di come ti ha fatto tornare a guardare il tuo libro. Allora, sì, lo scoglio più grande è stato più che quello, lo ripeto, dell'idea del giallo, quando invece è solo un pretesto. Le recensioni sono state molto spesso interessanti, mi hanno dato degli spunti, in particolar modo la gran parte ha messo in evidenza la scrittura, la prosa, e quindi il modo di funzionare di questa prosa, anche a volte piuttosto aggrovigliata e complessa. Però, se devo dire la verità, lo spunto più divertente rispetto al romanzo è venuto ora dalle tue parole. E cioè, no, è vero, perché mi hai detto se il protagonista Davide Aloisi era in qualche modo ispirato ad Alyosha dei Fratelli Karamazov. Questa cosa non era mai emersa, e anche da parte mia non ci avevo pensato, però invece in realtà è molto significativa, sia perché il protagonista è un protagonista in qualche modo possiamo dire tra virgolette buono, non è un soggetto malvagio, gliene capitano di tutti i colori, lui reagisce in vari modi arrabbiandosi, bestemmiando, il che è poco da lesa, però però come Alesa Karamazov anche lui è un Karamazov, e come dice Dimitri anche te sostanzialmente sei un insetto, anche te hai quella libido che ti abita, non sei un santo. E la stessa cosa accade proprio al protagonista del Giorno della Nutria, che per quanto tenti di porsi al di sopra degli altri, quasi con una sorta di complesso di superiorità, allo stesso modo è riportato indietro da tutta la sua parte sensuale più animalesca. È interessante il fatto che il protagonista citi continuamente e dettagli di romanzi, nomi di autori, dinamiche di discorsi filosofici, in particolare quelli di Galimberti, ma non solo. E però in un suo diario vada a scrivere: sì, ma a me tutta questa cultura che cosa mi serve? Mi serve per costruirmi un complesso di superiorità che mi separa dagli altri, mi serve per svuotare il mondo fattuale, quello che tutti viviamo, e riempirlo invece del mondo libresco, mi serve quindi di conseguenza per nullificare l'altro, mi serve per non rispondere alle telefonate quando mi arrivano, perché potrebbero distogliermi da questo mondo libresco. Ora, è interessante questo fatto, perché si pone proprio una chiusura tra il mondo e la cultura, quando la cultura invece dovrebbe essere o potrebbe essere un qualcosa che apre al mondo e arricchisce il mondo. Solo un altro paio di domande, perché poi magari se vuoi puoi leggerci qualcosa e ci sono magari domande o curiosità da parte del pubblico. La prima è questa: non l'ho citato inizialmente e me ne scuso, il fatto che oltre a essere appunto romanziere, Andrea è una delle colonne di Crapula, rivista online di letteratura saggistica e narrativa, ed è il presidente del concorso Urbanità Tentacolare, che proprio si svolge a Scandicci, che è stato quest'anno alla seconda edizione con un numero di racconti importante, credo fossero 400 e qualcosa racconti pervenuti. Ti volevo chiedere come, oltre a essere recensore anche per alcune testate giornalistiche, ti volevo chiedere se nella tua attività con Crapula e anche negli ultimi anni con il concorso letterario, ci sono delle cose che ti hanno colpito in quello che si muove oggi negli esordienti letterari italiani, in positivo e in negativo? Allora, anzitutto mi colpisce molto in negativo la fretta. La fretta, cioè l'idea che la scrittura non sia un percorso, ma sia invece un'azione. Per cui io prendo, scrivo il libro e poi lo mando a raffica, alle case editrici, oppure alle agenzie letterarie, oppure al Calvino, al Neri Pozza e tutto il resto. Questo mi colpisce in negativo, perché invece la scrittura è necessariamente un percorso, e non è neanche un percorso individuale, è un percorso di confronto con i pari, è un percorso nel quale pian piano si acquisisce sensibilità linguistica, si impara a non commettere errori, e E quindi mi dispiace perché noto che questa fretta genera poi moltissima frustrazione perché i risultati ovviamente non vengono fuori, perché è sbagliata anche l'idea di dire io voglio avere successo con un libro. No, se te sei interessato al fatto letterario, quello che conta è che te pian piano in questo fatto letterario ci entri, inizi a dialogare con la comunità, con la società letteraria, anche perché è la componente in assoluto che più può arricchire. E mi sembra che la pubblicazione sia solo il momento finale di questo percorso. Una cosa che invece mi ha colpito molto positivamente è la rinascita del racconto. La rinascita del racconto, cioè il fatto che al di là di quelle che possono essere le pubblicazioni che si trovano in edicola, il racconto è molto vivo. È molto vivo nelle riviste online, è molto vivo anche nelle riviste scritte. Si continuano a organizzare racconti. Io, per esempio, a organizzare concorsi. Per esempio, l'altro ieri sera mi trovavo a Roma per il concorso Scenicchia Una Sega 2 e sono stati letti 4 racconti, almeno 2 dei quali avevano un grande valore. Ora però, perché? Perché con il racconto si riesce a creare quella comunità di pari che si confrontano, che si autoeditano, che in qualche modo anche si stoppano l'un l'altro, no, questa cosa non va bene, no, quest'altra invece possiamo farla meglio. Mi sembra che lì ci sia una vera dimensione di comunità che manca con forza nel romanzo. Mi dispiace, in conclusione rispetto a questa domanda, che difficilmente i raccontisti abbiano spazio editoriale, a parte Gregorio Magini, che logicamente penso aver risposto. L'ultima cosa che volevo chiederti, poi ci sono domande, io chiuderei poi con la lettura, se mi dicono, cioè, quindi magari subito dopo la mia, se ci sono domande o curiosità. Appunto, volevo tornare all'inizio, a quello che abbiamo accennato, cioè il romanzo lo stiamo presentando al Festival di Letteratura Sociale. Ieri c'è stato, durante il dibattito sullo stato di salute della critica letteraria, appunto un momento nel quale tutti i partecipanti si sono interrogati su che cosa vuol dire dal loro punto di vista la ricaduta o la dimensione sociale dell'opera letteraria. Io ti dico una mia personale ipotesi, perché volevo sapere che cosa ne pensi tu. Io credo che si possa dire in fondo di questo, cioè dell'apporre l'aggettivo sociale appunto alla parola letteratura, quello che fu detto anche della interpretazione metafisica o teologica di un testo letterario, cioè che un testo non è metafisico o teologico in letteratura nella misura in cui ci sono Dio, i santi, le madonne o gli dèi, ma nella misura in cui scava una buca sufficientemente profonda nell'esperienza umana da chiamare l'interpretazione metafisica. Credo che questo si possa, per quanto mi riguarda, sia vero anche appunto della dimensione sociale. Però volevo chiederti, per te, nella tua prospettiva di narratore e di lettore, che nesso c'è fra letteratura e sociale? Allora, il nesso tra letteratura e sociale è una domanda anche abbastanza impegnativa, direi. Secondo me il nesso è estremamente forte, e non tanto perché leggendo ci si raffina oppure si sviluppa la propria capacità critica, quanto perché nella lettura molto spesso vengono, diciamo, terremotate una serie di certezze dovute alla semplice quotidianità, Cioè, quello che facciamo molto spesso lo facciamo perché è normale, è fenomeno di costume. Ora, il costume che ci abita anche tutti, è un costume fortemente consumistico, in una maniera anche esagerata. La letteratura, da questo punto di vista, può avere un'azione di rottura. Andando a ricalibrare, e questo anche è il discorso della metafisica, andando a ricaricare una nuova assiologia, una nuova metafisica, un nuovo sistema di attribuzione dei significati che prescinda dal materialismo consumista, edonista e mercificatorio. Quindi, secondo me, ora come ora, la letteratura, diciamo così, ideologica ha davvero poco spazio. Per ideologica intendo ideologica, in senso anche tradizionale, quindi impostata con una tesi da dimostrare. Allo stesso tempo, andando a scavare nell'umano, si possono recuperare delle dimensioni molto più significative, ed è importante questo, molto importante. Bene, se ci sono domande o da parte del pubblico, dei lettori o non ancora lettori del romanzo, o siamo stati troppo chiari o troppo poco chiari, sono entrambi pregi, e a questo punto, se no, se non c'è niente, ok, allora Andrea, scegliete che cosa leggere. Faccio solo una premessa, io sono dislessico, quindi non ho una lettura proprio stupenda, però mi ci metto volentieri. Mi scuserete se ho qualche intoppo. Allora, io voglio leggere un sogno. Sostanzialmente il protagonista, che ha un rapporto molto stretto con la madre, che, come raccontava Edoardo, è estremamente malata, ha un rapporto anche bloccante. Finché lei è in vita, non ha nemmeno lui la propria eredità, ma non ha nemmeno la libertà di potersi muovere come preferisce, perché questa madre è enorme, è onnipresente, sta sempre allettata in una stanza e è piena di bisogni. E lui fa un sogno dentro un sogno, quindi abbiamo un primo sogno, il protagonista si sveglia e inizia il secondo. Mi risvegliai sul mio letto con una certezza. Emanuele era la fonte della nutria. Dovevo urgentemente pisciare, avevo orrore che qualcosa mi artigliasse le gambe da sotto il letto se fossi sceso, e rimanevo immobile, ma respiravo con molta fatica. Nel sonno avevo inspirato la polvere di cui la mia stanza nell'appartamento di Firenze era satura, e questa aveva impregnato le spugne dei miei polmoni, aggrumandosi e aggregandosi, formando matasse filamentose di batuffoli fradici di saliva. Stavo soffocando, mi si annebbiava la vista, l'anossia mi faceva sentire leggero, in levitazione, e mi toglieva le forze. Con molta fatica, semiparalizzato, riuscii a portarmi la mano destra alla bocca, che spalancai. La mano però non c'entrava, me la slogai disperatamente con la morsa delle mascelle e ritentai. Così disarticolata, riuscii a ficcarmela in gola e ad afferrare con due dita un viluppo di quella laida laniccia di polvere, peli e capelli che mi risaliva su per la trachea. Iniziai a tirarlo via tra i conati e percepivo che, uscendo fuori, si portava dietro l'intera matassa soffocante. Questa aveva allignato negli alveoli polmonari e e non si staccava. Detti uno strattone, sentii l'interno del petto strapparsi e vomitai sul pavimento l'immondo groviglio intriso di sangue. Poi vomitai ancora e ancora, boli di piume e ossicini di tordo, i besoar e pezzi di polmone neri per il tabagismo, marcescenti, divorati da bigattini, larve di mosca carnina. Qualcuno mi si muoveva in bocca, sotto la lingua, e mi affrettai a sputarlo con sommo disgusto. Solo allora mi accorsi che la stanza era piena di mosche, che ronzavano ovunque, per colpa mia. Non avevo pulito, tutto era lurido e gli insetti avevano proliferato. Era solo colpa mia. Si spalancò d'improvviso la porta ed entrò una vecchia, ultracentenaria. Era mia madre. Accese la luce, stava gobba e si trascinava su una gamba, ansimando. Nella mano destra la pelle era solo un fragile velo traslucido, un budello sottilissimo, cosparso di macchie marroni, che conteneva a fatica i gonfi cordoni venosi. Nella mano destra, dicevo, deformata dall'artrite, teneva un corto bastone nodoso su cui si appoggiava. Oltre alla mano le si vedeva solo il viso livido, rugoso, informe, fango e cera liquida. Il resto era coperto da una mantella nera di panno opaco, con il cappuccio. Non aveva capelli, né ciglia né sopracciglia. «Cosa ci sarà sotto la mantella?» pensai. «Muoviti!» urlò, e per metà era voce e per metà un gorgoglio di catarro. «Ma ti sei rincretinito?» Caracollando spalancò la finestra. Io mi alzai e andai ad aprire l'altra. «No, no, togliti, questa non si apre!» mi scostò e la fracassò a colpi di bastone. «Quante volte te l'ho detto? Se levi la lavanda dal davanzale, le avole morte arrivano in forma di rospi e gechi e falene e ti rubano il besoar per farci intrugli di sortilegio. Impastano abomini, bestiole setolose come verri, con le manine nere del riccio, gli zampi del capro e il ghigno sconcio della iena». Da una scaffale della mia libreria iniziò ad arranfare tomi e tirarmeli. «Muoviti, brucia tutto!» Erano vari volumi divisi da vicino, di Giulio Andreotti, che io avevo collezionato battendo per anni le librerie dell'usato della città. Strappavo le pagine e le buttavo sopra il cumulo del mio vomito pericoloso. Quando il mucchio di carta mi parve sufficiente, presi l'accendino dal comodino e detti fuoco. «Anche il letto è appestato, è tutto infestato», disse mia madre. Gettò nel focherello prima le lenzuola e poi i cuscini, e questo divampò. A quel punto ci rovesciò sopra il materasso, si accovacciò e orinò. Prese a dimenarsi tarantolata, ballando in cerchio, intorno alle fiamme che arrivavano al soffitto, e a cantare qualcosa che non capivo e non ricordo, ma che sapevo essere una litania orfica. Anzi, erano ditirambi gnomici e eleusini. Ora era agile e più giovane, molto più giovane. Si tolse la mantella nera e sotto era nuda. La pallottolò e la lanciò nel falò. Ci fu un'esplosione e tutto prese fuoco, compresi noi. Eravamo due pire umane. Lei mi strinse a sé e mi baciò infilandomi la lingua in gola, una lingua abnorme che si insinuò nel cavo orale, scese lungo l'esofago, superò lo stomaco e arrivò a frugarmi nelle viscere. Bruciavo e soffocavo e sapevo che era giusto. Mi svegliai. Credo che sia. Grazie a tutti, le ricordo il libro Il giorno della Nutra, che è disponibile anche nello stand, non, in più di uno, certamente in almeno in uno, credo quello della Cité, se non mi ricordo male, e credo che l'autore sarà ben felice di firmarvi le copie. Non so se è tradizione della polveriera battere i libri come si fa per augurare gloria, ma ormai il libro sta camminando da tanti mesi, ma secondo me si può ribattere per augurargli la 25esima edizione, quindi Andrea, battilo sul tavolo e insomma, puli, adesso rito, insomma.